frequenze sui generis. Innamorati del femminismo. Ciao a tutte e tutti, oggi è lunedì e come ogni lunedì ci siamo noi di Frequenze sui Generis a tenervi compagnia. Oggi in studio ci siamo io che sono Viviana, Mari e ci sono le amiche della Falla, Francesco Colombrita ed Elisa Manici. Ciao! Ciao! Esploreremo con loro il numero di giugno della Falla, ma prima, come ogni lunedì, andiamo a vedere chi ci accompagnerà come musica. Allora Vivi, l'autrice che ho scelto per questa puntata è un'autrice famosissima, quindi non mi dilungherò in spiegazioni. È Adele Lori Blue Atkins, conosciuta semplicemente come Adele o Adele, se la vogliamo chiamare in italiano. È una cantante che è nata a Londra nel maggio del 1988, una cantautrice appunto britannica che è considerata una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco, ma insomma credo che questo tutti quanti e tutte quante lo sappiamo. Sappiamo anche che fra i suoi brani più famosi c'è Someone Like You, e volevo parlare di questa canzone anche se in verità non ve la farò sentire, perché mi sembra un bel esempio di come da una tragedia come può essere quella della fine di un amore, si possa, diciamo, ribaltare tutta la situazione e utilizzare quello che si è provato e questa storia per crearne un successo planetario, e che quindi questo sia un po' di augurio a tutte e a tutti. E quindi, appunto, sì, una storia molto triste che però ha avuto dei risvolti altamente positivi, e sempre un po' di amore lei parla all'interno delle sue canzoni, dei suoi album, che diciamo usano sempre dei numeri per essere titolati, che sono l'età della cantante che aveva quando ha prodotto questi album. Però, come dicevo, non ci dilunghiamo troppo perché tanto Adele la conoscete tutte quante, e quindi partiamo subito con il primo brano, che è Rolling in the Deep. Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me. Scars sulle ultime note del brano di Adele, prima di iniziare proprio la nostra puntata e parlare degli articoli della Falla, non possiamo condividere quello che stavamo dicendo a microfoni spenti, ovvero che insomma sia io che Elisa sapevamo questa notizia veramente allucinante, che non so se lo sapete, però l'ex compagno, l'ex ragazzo, fidanzato di Adele, che appunto quello di cui lei parla, che le ha fatto scrivere queste canzoni, ha avuto la faccia tosta di chiedere addirittura dei soldi sui diritti delle canzoni, perché insomma è tutto merito suo se questa ragazza ha avuto questo successo, perché se lui non le avesse spezzato il cuore lei non sarebbe quella che è. Insomma, veramente faccia tosta all'estremo, bisogna dire. Va bene, comunque adesso entriamo insomma in argomenti un pochino più diciamo più strutturati, e veniamo proprio al primo articolo della Falla di questo mese. Il primo articolo, che ha un titolo enigmatico ma non troppo: esistere o resistere, meglio esistere, scrivere la storia LGBT+. Perché a quanto pare l'Università di Torino ha attivato un corso di storia dell'omosessualità nell'ambito del corso di laurea in DAMS, e a scrivere questo articolo è proprio la docente di questo primo corso di storia dell'omosessualità, che è Maya De Leo. Io sono molto curiosa di capire di cosa si studia in un corso di storia dell'omosessualità. Elisa, ce ne vuoi parlare tu? Certo, innanzitutto è stato un onore per noi avere Maya De Leo come prima pagina nel mese di giugno, che essendo il mese del Pride, per noi il Pride di Bologna non si svolge a giugno quest'anno, però in tutto il mondo il mese del giugno è il mese del Pride, e per noi il mese forse più importante, è l'unico mese in cui siamo in quadricromia, ci tengo a sottolineare. E cosa significa storia dell'omosessualità? Significa che oltre a focalizzarsi sull'omosessualità in sé per sé, diciamo la presa di parola del movimento LGBT+, diciamo a partire dagli anni 70, ha di fatto liberato migliaia e migliaia di pagine di documenti di ogni tipo, che devono ancora essere del tutto esaminati. Questo da un punto di vista, diciamo, meramente storiografico. Poi è chiaro che c'è anche un altro aspetto, quello di riscrivere alcuni dei presupposti con cui si studia la storia da sempre, una volta che oggi, nel 2018, siamo, almeno in certi ambienti, diciamo l'attuale governo neo insediato non ci fa ben sperare, però siamo liberi dalla presupposizione dell'eterosessualità obbligatoria. Sulla parte storiografica dei documenti fa un paio di esempi particolarmente interessanti. Uno sulla gentildonna inglese Anne Lister, vissuta tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento, che teneva una serie di diari in un linguaggio cifrato in cui annotava tutte le sue relazioni con le donne. Gli archivisti hanno evitato di, diciamo, aprire questo vaso di Pandora fino agli anni Ottanta. Questa storia era del tutto ignota. Un altro esempio che ci tocca ancora più da vicino è quello di Luigi Settembrini, una figura del Risorgimento italiano, che a metà Ottocento scrisse un libriccino, i Neoplatonici, diciamo sulla relazione, sull'amore tra due ragazzetti dell'antica Atene. Questo libretto ovviamente scomparve dalle scene, e anzi il Risorgimento è un momento fondativo dell'immaginario italiano come focolare domestico e, diciamo, eterosessualità a bomba. E Benedetto Croce, interrogato negli anni 30 da degli archivisti su cosa dovessero fare rispetto a questo libretto, gli disse di nascondere le pagine lubriche e malsane. E infatti poi alla fine è stato pubblicato in Italia solo nel 1977, quindi mentre stava diciamo nascendo il movimento LGBT+ italiano, e sulla scorta comunque del 68, della liberazione sessuale e quant'altro. Grazie Elisa per questa introduzione all'articolo, che appunto occupa tutta la prima pagina della Falla di questo mese. Ma io adesso ti volevo chiedere una cosa rispetto a un altro articolo, facendo un po' un collegamento anche con con l'artista che ci ha accompagnato e che ci accompagna per questa puntata, quindi Adele. E l'articolo si chiama Condannate alla resistenza, il corpo grasso nell'Occidente contemporaneo, e sicuramente questo è qualcosa di cui anche Adele è stata molto vittima, perché appunto una voce così potente, una cantante incredibile che riesce a comunicare emozioni fortissime, ovviamente il fatto che fosse una donna che non rientra nei canoni di magrezza occidentali o chissà, forse adesso anche mondiali, mi viene da dire, con questa globalizzazione che esporta canoni, e sicuramente insomma le è valso più di un problema. Quindi ti chiedo se hai voglia di raccontarci un po' anche questo articolo, in particolar modo che fa riferimento anche a questo periodo di primavera e inizio estate, in cui il tema della grassezza diciamo diventa ancora più sentito. Certo, l'articolo si intitola non a caso Condannate alla resistenza, perché non è una battuta, di fatto è vero. Inizio con un posizionamento, se vogliamo, autoetnografico. Io stessa sono una donna grassa, sono stata grassa per tutta la vita e probabilmente il mio dedicarmi a studiare le rappresentazioni del corpo e lo stigma che subisce la grassezza nella nostra società è stato anche un modo per reagire allo stigma che io stessa subisco e subivo, diciamo. Cosa succede ai corpi grassi nella società contemporanea? Succede che sono l'ultima categoria di persone, come dico sempre, che chiunque si sente autorizzata a insultare. Ultimamente c'è, non lo cito nell'articolo, ma c'è anche una tendenza aberrante di fare foto a donne grasse inconsapevoli e metterle su Facebook come meme per dileggiarle. È una guerra veramente, diciamo, giocata sulla psiche delle persone. E nonostante ci siano in realtà studi scientifici a bizzeffe che dimostrano ampiamente che il 90% delle diete fallisce entro 5 anni dal suo termine, si riacquista nel 90% dei casi tutto il peso perso, quindi bisognerebbe rassegnarsi e accettare il fatto che esistono molti tipi di corpi al mondo. E invece questo non accade. E cosa c'entra Foucault, il filosofo francese, con la grassezza? C'entra tantissimo, perché quello che lui sosteneva sui corpi e sul controllo sui corpi nella società contemporanea, sulla grassezza trova un'applicazione perfetta. Cioè, secondo lui, i rapporti di dominio e subordinazione non si giocano più tanto con un'autorità esercitata dall'alto, ma con una rete di controllo sociale diffuso. Lui infatti, fatemi fare questa unica citazione, scrive: non servono armi, violenza fisica, costrizioni materiali, basta uno sguardo che ispeziona, uno sguardo che ciascun individuo, sentendolo pesare su di sé, finirà per interiorizzare al punto di essere l'osservatore di se stesso. Così ciascuno eserciterà questa sorveglianza su di sé e contro di sé. Quindi le cose vanno proprio così, lo sappiamo, e vanno proprio così, tra l'altro, non solo per le persone veramente grasse, non so come dire, che anche visivamente si distaccano da quella che percepiamo come norma, come possono essere io. Questo controllo sociale diffuso e reciproco fa del male a tutte e a tutti, anche alle persone perfettamente snelle, perché finché non raggiungeranno la massa corporea di meno 15, si sentiranno sempre imperfette, grassottelle e quindi più infelici. Quindi dobbiamo trovare delle strategie per sopravvivere e contrastare questa narrazione. Ma infatti quello che tu dicevi mi faceva venire in mente proprio un libro molto importante che non è facilissimo trovare, di Naomi Wolf, che si chiama The Beauty Myth, il mito della bellezza, e ricordo che lei parlava proprio della dieta come il più potente sedativo che noi donne utilizziamo, anzi ci autoinfliggiamo, e commentava dicendo che una popolazione con una così tranquilla ossessione, perché poi è vero che essere continuamente a dieta ti fa diventare un po' anche apatica, diciamo, e è una popolazione veramente facilmente manipolabile. Quindi vabbè, il tema della bellezza, degli standard è un tema ampissimo in cui avremo tantissimo da dire e sicuramente insomma ne parleremo, sì, ci ritorneremo. Andiamo avanti con un altro articolo, questo su un tema che ha occupato i giornali negli ultimi mesi. E il titolo è Stupro di Stato, una violenza mascherata dalla vergogna, e parla dello stupro di gruppo subito da una ragazza a Pamplona nel giugno 2016. Abbiamo qui Francesco che è l'autore dell'articolo, quindi Francesco ti chiederei di raccontarcelo. Allora, sì, io ho deciso di scrivere questo articolo sotto suggestione anche di Elisa che parlava poco fa, per un motivo molto semplice, molto particolare. Noi siamo un mensile, quindi di rado affrontiamo fatti di cronaca, se non in casi come questo che hanno un riscontro e un riverbero molto più ampio. Cos'è successo? Una ragazza è stata, come forse saprete già tutti, è stata approcciata da 5 ragazzi dopo una serata a Pamplona, portata nella corte interna di una casa e abusata sessualmente. Io dico stuprata. La differenza per la legge spagnola è tanta ed è tale il punto per cui i giudici che hanno il mese scorso decretato la sentenza hanno detto che non si trattava di stupro, perché la ragazza appunto non ha opposto una resistenza sufficiente da far giudicare l'atto di 5 persone che si sono scambiati video di questa aggressione su un gruppo WhatsApp dal nome La Manada, che ha dato il nome al caso, che vuol dire appunto branco di lupi. Tutto questo ci fa pensare, dovrebbe farci riflettere su un aspetto quantomeno agghiacciante, e cioè che in casi di questo tipo, soprattutto quando le donne sono vittime, quasi solo quando le donne sono le vittime, si sposta l'attenzione della colpa su di loro. Cioè non c'è uno stupratore in realtà, non c'è qualcuno che ha fatto qualcosa di male, è la donna che se non ce l'ha cercata non ha fatto quel che poteva, magari in fondo le è anche piaciuto. E sono discorsi forti ma che investono la cronaca di continuo. Soltanto in Italia l'ultimo che mi viene in mente è stato l'anno scorso, in cui un'infermiera è stata toccata da un paramedico all'interno di un'ambulanza e non è stata violentata, ma siccome non ha urlato il giudice italiano non ha accusato l'aggressore per stupro ma soltanto per violenza. Ora, il caso della Manada ha avuto un particolare riscontro mediatico anche a seguito di un appello molto interessante, un appello pubblico delle carmelitane di Ondarribia che hanno sulla scia del MeToo lanciato anche un hashtag e una campagna che è Sorella io ti credo. Una lettera molto interessante che consiglio a tutti di recuperare, perché il punto chiave della loro analisi è che è la libertà che deve avere ogni donna e ogni individuo di fare quello che vuole senza incorrere nella violenza o nel giudizio. C'è un passo della lettera in cui loro dicono proprio: noi abbiamo scelto questo stile di vita, di castità, virtù, ecclesiastica, eccetera, ma questo non ci rende migliori di una ragazza che, anche se va in giro nuda, anche se non sono esattamente queste le parole che hanno usato, non deve incorrere in un rischio del genere. Ecco, questo è sempre molto difficile da far capire, e anche questo tema, il tema del consenso, è un tema ampio, infinito. Cioè il fatto che, no, cosa si aspettava dopo una serata ubriaca, l'abbiamo già detto tante volte, si aspettava di aver mal di testa il giorno dopo, non di essere violentata. Cosa si aspettava di, se girava in minigonna, di prendere del fresco nelle gambe, non di essere violentata. E questo mi riporta anche a una notizia recente del fatto che in Svezia, mi pare, adesso è uscita una legge per cui è sempre stupro quando non c'è un consenso esplicito. Cioè, ovvio, non è che bisogna far firmare dei fogli, però un consenso che venga detto o a parole o comunque dimostrato fisicamente. Il problema è che in questi momenti c'è sempre un'alzata di scudi del tipo: ah, ma allora questa legge verrà utilizzata dalle donne per andare contro gli uomini, perché magari si inventeranno che, no? Mi fa sempre molta impressione questo. Sì, ma hai perfettamente ragione, perché qua la cosa assurda è che sembra che ci si voglia appellare a un garantismo eccessivo. Per carità, potrebbe anche succedere, ma io trovo rivoltante che una giuria, tra l'altro una delle torre spagnole, ha votato per la completa assoluzione del gruppo di ragazzi, neanche per l'abuso, quindi riducendo la pena, per l'assoluzione, una cosa terribile. Sì, la questione del consenso è anche quel sottile limite. Ora non si parlava di stupro, ma il caso Weinstein ci ha insegnato qualcosa. In Italia tutti si sono scagliati. la cosa inquietante è che tutte si sono scagliate contro Asia Argento dicendo che fondamentalmente che se l'era cercata o che l'aveva fatta apposta per ottenere incarichi e quant'altro. Certo, ma d'altra parte, come diciamo sempre, non basta nascere femmine per essere femministe, così come il fatto di essere maschi non significa che si sia maschilisti. Insomma, è un percorso che va interiorizzato, ragionato, e insomma ci auguriamo anche che con gli articoli che voi scrivete, con questa diffusione di un giornale anche come il vostro, ci sia la possibilità, insomma, di ragionare su questi temi. Ma siccome il tempo è tirannissimo, vi facciamo ascoltare adesso un secondo brano di Adele e poi ritorniamo in studio per continuare a guardare gli articoli di questo numero. This was all you, none of it me. You put your hands on. Torniamo in studio perché, come dicevamo, il tempo è tiranno e vola, e quindi ci sono tantissimi altri articoli super interessanti in questo numero, però vi ridiamo la parola a Elisa e Francesco che ci raccontano alcuni degli appuntamenti imperdibili di questo mese e anche del prossimo. Domani, martedì 12 giugno, alle ore 18 al Cassero, inauguriamo una mostra come farfalle dei 30 poster dei primi 30 numeri della Falla. E ci sarà anche alle 19.30 una tavola rotonda su sesso e sessualità, moderata da me, con Cristina Portolano, Nicoletta Landi, Beppe Ramina e Milena Bargiacchi. e sarà un'occasione per vedere tutti i poster della Falla, appunto, e vi aspettano sorprese sulla gestione dell'evento, cose quasi un non luogo, cioè, da aspettarsi. E dopo quella serata, la Falla, a partire da martedì 26, sposteremo la mostra da UF in via Testoni, qui a Bologna, dove ci sarà una selezione dei poster, in realtà non tutti, ma rimarranno per la durata di un mese, quindi c'è tempo di vederli bevendo qualcosa. Allora, visto che questa è l'ultima puntata per qualche mese che facciamo con voi, che siete stati i nostri ospiti il secondo lunedì di tutti i mesi, ma noi fra un pochino finiremo questa stagione, vi chiediamo anche di dare un'anticipazione sulla data del Gay Pride, che sarà quest'anno qui a Bologna a luglio. Sabato 7 luglio! Ecco, quindi insomma vi aspettiamo tutti e tutte favolosissime per le strade di Bologna in questo evento assolutamente imperdibile. Siamo arrivati al termine di questa puntata anche oggi, non ci resta che ricordarvi che le nostre puntate saranno ascoltabili perché pubblicheremo su Facebook i podcast, quindi anche questa puntata la trovate sulla nostra pagina Facebook che è Frequenze sui Generis. E appunto per questa puntata è tutto, diventate nostre amiche su Facebook, chiedeteci l'amicizia, seguite le puntate e come sempre anche se avete dei consigli o avete voglia di qualche approfondimento particolare su qualche tema particolare potete farlo scrivendoci un messaggio. Ma vedo Elisa che forse vuole dire qualcosa. Volevamo salutarvi, ringraziarvi e ricordare di diventare anche nostre amiche su Facebook e sui nostri canali social, grazie. Certo, perché comunque noi finiamo la stagione, però la Falla continuerà a pubblicare, quindi insomma mensilmente la potrete trovare in vari posti a Bologna. E con questo è veramente tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento per probabilmente l'ultima puntata il prossimo lunedì. Here.